siamo una razza che va a girare, a noi li puoi trovare tutti i bambini. Siamo una razza che va a girare, sappiamo noi quanto mondo è grande. Sappiamo noi quanto ci mente a iri, d'aereo per New York e poi a venire. Noi siamo a tutti i vanni, siamo tanti, e noi siamo emigranti. A terra nostra n'amore scordata, a terra rossa chi l'ha seminata. No mare bello chino di lampari, campagna bella che ti fa campare. Davanti a noi tutti si duni fari, politicanti, ministri e tutti santi, tutti subboni a parlare davanti, davanti alle migranti. Parlano alle riunioni, giornali, radio e televisioni. Una volta hanno parlato presidenti, io mi ricordo ero ancora studente. E di rovero non c'hai capito niente, una confusione mai mi so pure i lenti. Per la miseria siamo proprio importanti, e noi siamo emigranti. E noi siamo emigranti, e noi siamo emigranti.